Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, le ipotesi di trasformazione delle nostre società, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, nella persuasione che il futuro della vita sul pianeta dipenda dalla cooperazione fra i viventi e non dalla supremazia di una specie, la nostra, su tutte le altre. È la puntata numero 649 e parleremo di tradizioni da superare, della difficile vita dei cavalli, di nuove minacce che incombono sugli animali selvatici, di curiose lotte contro i cibi di origine vegetale, dell'antica storia che lega gli umani ai cani. Il nostro versatile Gabriele Palloni questa settimana, oltre a regalarci la sua consueta ricetta ispirata dagli argomenti trattati nella puntata, si prende cura della colonna sonora. Frustate in 15 secondi. Frustate sferrate nella concitazione della gara, negli attimi finali della corsa, dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, sul corpo del cavallo chiamato zio Frank, costretto lo scorso 2 luglio a correre all'impazzata nell'inferno di Piazza del Campo a Siena. 18 frustate contate grazie alle immagini a rallentatore dell'Associazione Italiana Difesa Animali Ambiente, AIDA, che ha presentato una denuncia in procura ipotizzando il reato di maltrattamento di animali. Qualcuno di fronte a questo passo si scandalizzerà, perché il Palio di Siena è sia una tradizione, sia uno show televisivo di consumo, e chi guarda alla salute e allo stato d'animo dei cavalli, più che al nome e al colore di sconosciute contrade, è automaticamente un guastafeste. Si dirà che i cavalli sono stati sempre frustati nella concitazione della gara, ma che in realtà sono amati e rispettati, e si dirà che la bellezza di una corsa così antica non può essere messa in discussione. Toccherà alla procura stabilire se la denuncia di AIDA ha un fondamento, come l'altra denuncia presentata per il ferimento di 2 cavalli, che perciò non hanno potuto partecipare alla corsa finale. Ma intanto possiamo dire, dal nostro punto di vista, e secondo una sensibilità diffusa, che il Palio di Siena è in realtà un anacronismo, e solo leggi antiquate ne permettono ancora l'esistenza. I cavalli, come sa chiunque abbia nozione di etologia libera, non condizionata cioè da zootecnia o equitazione, o anche che li abbia visti in libertà, chiunque sa che i cavalli sono animali mansueti, erbivori, che sono e si considerano prede, con tutto ciò che ne deriva in termini di comportamento, e sa che sono animali abituati a vivere in branco, sono animali prudenti, schivi, più o meno l'opposto della vita che sono obbligati a fare nei maneggi, nelle scuole di equitazione e a maggior ragione nelle competizioni infernali come il Palio di Siena, dove le citazioni, i rumori, la calca, la foga dei fantini li fa impazzire, così possiamo immaginare, di ansia e di paura. La notizia per i media è stata che il 2 luglio il Palio di Siena è tornato alla sua normalità dopo le edizioni segnate dalla pandemia e che ha vinto una certa contrada, sconosciuta ai più, come peraltro tutte le altre. Per noi la notizia è un'altra, e cioè che restiamo ancorati a pratiche ingiuste nei confronti degli animali e quindi da superare. Il nostro pensiero va dunque ai cavalli feriti, frustati, costretti a prender parte a competizioni per le quali non hanno alcun interesse. altre brutte notizie stanno segnando quest'estate per i cavalli utilizzati nell'industria del turismo e dello sport. A Cesena, nel locale ippodromo, una cavalla di nome Carbela è stramazzata al suolo a 800 metri dal traguardo ed è morta. Aveva solo 4 anni, quindi era ancora molto giovane, ma era già una veterana delle corse, con un curriculum di ben 23 gare corse a soli 3 anni e altre 11 a 4. L'ultima gara le è stata fatale. E mentre la società che gestisce l'ippodromo parla di tragico incidente, come ne accadono anche agli atleti umani, nonostante i controlli medici e le attenzioni, le associazioni animaliste ricordano che i cavalli non scelgono di correre, che sono costretti a farlo in età giovanissima, che la vita di ciascuno di loro è un calvario e non un modo per realizzare se stessi. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu, maestra, mi parlerai. Insegna pure come si deve una donna amare. Regina, tu comanda pure, c'è già la musica per sognare. Sciolgo le trecce ai cavalli, corrono, e le tue gambe eleganti ballano. A Firenze, sempre nei giorni scorsi, ha colpito l'immagine di un cavallo caduto sulle ginocchia, prostrato, ancora attaccato alla carrozza che era costretto a trascinare per le vie di una città resa caotica dal traffico e arroventata dal sole. È difficile rimanere indifferenti di fronte a un'immagine del genere, all'evidente sofferenza dell'animale. Ma i cosiddetti fiaccherai, un po' come succede con il Palio di Siena, fanno parte di una tradizione che si dice di non volere e non poter dismettere. Nonostante tutto sia cambiato attorno a queste carrozze a cavallo, le strade della città, ormai tutte asfaltate, il caos automobilistico, poco sopportabile per gli umani, figuriamoci per i cavalli, la calca delle migliaia di turisti che affollano il centro storico della città, il caldo estivo, sempre meno sopportabile. Sarebbe l'ora, e da tempo se ne parla, ma senza agire, di liberare i cavalli da impegni così gravosi e di convertire le licenze dei fiaccherai in altre licenze di trasporto, in modo da contenere l'impatto del cambiamento sui singoli operatori. I progetti non mancano, ma la classe politica del momento, senza distinzioni di indirizzo politico, manca della consapevolezza e del coraggio necessari, a Firenze come a Roma e nelle altre città dove ancora circolano carrozze trascinate da cavalli. L'anno scorso a Firenze l'Associazione Italian Horse Protection aveva lanciato una petizione che aveva raccolto 35.000 firme online, con la quale si chiedeva al comune di abbandonare le carrozze. Sonny Richichi, presidente dell'associazione, dopo l'episodio di Via dei Calzaiuoli col cavallo accasciato, è tornato a chiedere al comune un intervento risolutivo. È giunto il momento, ha detto, di fare una scelta: ignorare la sofferenza degli animali o evolverci diventando una società civile. Si torna a parlare delle denominazioni di alcuni cibi preparati con alimenti solo vegetali, ma che mantengono le nomenclature di quelli che usano carni, formaggi, le proteine di origine animale. È successo in passato per le bevande, per esempio, coi produttori tradizionali che hanno ottenuto dall'Unione Europea una norma che ha imposto di sostituire le vecchie edizioni come latte di soia, latte di avena, latte di riso e così via, con più generiche espressioni come bevanda a base di soia, di avena, di riso, eccetera. È una lotta che i produttori tradizionali stanno affrontando con un grande impegno. Ora nel mirino sono finiti i prodotti di macelleria e salumeria, sempre più spesso accompagnati da aggettivi come vegetale o vegano. Pensiamo agli hamburger o alle polpette, anche in locali e catene commerciali, fra le più note al mondo. Alla carica va la Coldiretti, che cita una legge approvata in Francia per sollecitare un analogo intervento normativo in Italia. Il decreto francese, spiega la Coldiretti, supera le incertezze ancora presenti a livello europeo, chiudendo la strada alla presenza nel carrello della spesa a finti hamburger con soia, spezie ed esaltatori di sapore o false salsicce riempite con ceci, lenticchie, piselli, succo di barbabietola ed edulcoranti, grazie alla possibilità di utilizzare nomi come burger vegano, bistecca vegana, bresaola, salame, mortadella, vegetariani o vegani, con l'unico limite di specificare sull'etichetta che tali prodotti non contengono carne. Per la Coldiretti, la bistecca vegano e il burger vegetale tradiscono una strategia di comunicazione subdola con la quale si approfitta deliberatamente della notorietà e tradizione delle denominazioni di maggior successo per attrarre l'attenzione dei consumatori e indurli a pensare che questi prodotti siano dei sostituti per gusto e valori nutrizionali della carne e dei prodotti a base di carne. Così la Coldiretti nel suo attacco. Si potrebbe ribattere, naturalmente, che la nomenclatura tradizionale può essere sempre aggiornata e specificata con l'uso di aggettivi, senza che in ciò vi sia niente di subdolo, ma è interessante notare come la difesa di modelli produttivi alimentari messi in discussione su più fronti, la conoscenza scientifica, per quanto riguarda la salubrità, la conoscenza ecologica, per le filiere produttive, la legittimità etica, sulla base di nuove, diffuse sensibilità, punti più sull'arroccamento che su argomentazioni e riflessioni. Come se, per definizione, non ci fosse niente da mettere in discussione e da cambiare. C'è il rischio di una pericolosa deregulation per le norme che disciplinano la caccia e la tutela degli animali selvatici. L'allarme viene dalla LAV, Lega Antivivisezione, secondo la quale è possibile che a breve la legge sulla caccia venga stravolta nella parte in cui detta disposizioni sul controllo faunistico. Con il pretesto dei danni all'agricoltura imputati ai cinghiali, dice la LAV, se il testo in itinere sarà confermato, verrà demolito ogni principio di precauzione oggi contenuto nella legge 157 del 92 per la tutela della fauna selvatica, una vera e propria deregulation che consegna nelle mani dei cacciatori qualsiasi specie di animale selvatico. In sostanza sarebbero semplificate le norme che impongono di eseguire abbattimenti legali solo dopo aver dimostrato l'inefficacia di interventi incruenti e senza il preventivo parere dell'ISPRA. Sarebbe esteso anche il periodo di apertura alla caccia al cinghiale e sarebbero ammessi abbattimenti con armi ad aria compressa e archi. Secondo Massimo Vitturi, responsabile LAV per l'area animali selvatici, siamo di fronte a un vero e proprio tsunami che vuole fare piazza pulita di ogni principio di precauzione posto fino ad oggi a tutela degli animali selvatici. Con il pretesto dei danni all'agricoltura imputati a cinghiali, che negli anni sono stati copiosamente e illegalmente introdotti dagli stessi cacciatori e con il loro avvicinamento ai centri urbani, conseguente alla sciatteria di tante amministrazioni locali, incapaci di gestire efficacemente la raccolta dei rifiuti urbani, stiamo assistendo all'avvio di una stagione di sangue innocente versato su tutto il territorio nazionale. Parliamo spesso di lupi e lo facciamo di solito per riferire del rapporto sempre più problematico con gli operatori economici, in particolare gli allevatori di montagna, e con le conseguenti campagne d'odio che li riguardano. Stavolta ne parliamo in termini scientifici, per una ricerca i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista Nature. Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Francis Crick Institute in collaborazione con altri 16 centri di ricerca e ha indagato sulle origini dell'addomesticamento dei lupi e quindi l'avvento dei moderni cani, un passaggio storico per le relazioni interspecifiche e anche per la successiva evoluzione sia di lupi e cani che di noi umani. Ebbene, secondo questo studio, i cani moderni sono geneticamente più simili ai lupi dell'antica Asia orientale rispetto agli esemplari europei, il che avvalora l'ipotesi che il luogo in cui per la prima volta avvenne l'addomesticamento potrebbe trovarsi in una zona dell'Eurasia orientale. Per decine di migliaia di anni, ha spiegato Pontus Skoglund del Francis Crick Institute, i lupi che vivevano in luoghi lontani come l'Alaska e l'Europa hanno continuato a condividere antenati recenti, il che suggerisce che gli animali si spostavano frequentemente. I ricercatori ipotizzano che gli eventi di addomesticamento siano avvenuti in diverse zone, ma al momento non è possibile indicare con precisione i luoghi. Quello che possiamo dire, dunque, è che le origini dell'addomesticamento restano oscure, ma che c'è stata, nel nostro passato, una lunga fase di interdipendenza e comunicazione fra cani e umani e che questa relazione ha interessato zone del pianeta ben più estese del microcosmo europeo o anche solo del vicino Oriente, come siamo soliti pensare. On the borders. Gabriele Falloni, il nostro tosco vegan chef, nonché questa settimana curatore della colonna sonora della puntata, dedica la ricetta del giorno alla città di Siena, una città che è nei nostri cuori per le sue bellezze, ma non per il palio, una tradizione che può e deve essere aggiornata, come peraltro le tradizioni culinarie. Se ne guadagna in termini di giustizia e di civiltà, mantenendo integra la bellezza dei luoghi e, nel caso del cibo, la bontà dei piatti. Sentiamo che cosa ci propone Gabriele, che, vi ricordiamo, è autore di un ottimo quanto economico libro edito da Newton Compton, da poco ristampato. Il titolo è «Se vuoi essere sano, cucina vegano». Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Come si dice, Siena di tre cose è piena, di torri, di campane e di una ricca tradizione culinaria. Certamente famosa per i suoi dolci tipici, dai ricciarelli al panforte, fra i piatti da portare in tavola ci sono anche i malfatti, conosciuti anche col nome di gnudi. In pratica una sorta di gnocchetto realizzato col ripieno dei ravioli, spogliato appunto dalla pasta. Gli ingredienti per 4 persone per i malfatti o gnudi senesi sono 100 g di semola di grano duro oppure di farina di riso, 50 g di farina di ceci, 300 g di ricotta vegetale di mandorle o di soia, 1 kg di spinaci freschi, lievito alimentare a scaglie, noce moscata, sale e pepe. Lavate gli spinaci e lessateli in acqua leggermente salata. A piacere si può sostituire una parte degli spinaci con bietola e ortica o borragine. Una volta cotte le erbe, scolatele e strizzatele molto bene con le mani, deve fuoriuscire tutta l'acqua di cottura. Tritate grossolanamente con un coltello gli spinaci e versateli in una ciotola. Aggiungete la ricotta vegetale, la farina di ceci, il lievito alimentare, sale, pepe e noce moscata. Mescolate energicamente fino ad ottenere un composto ben amalgamato. Con le mani leggermente inumidite realizzate delle palline grandi più o meno come una noce e passatele nella semola o nella farina di riso e successivamente adagiatele su una spianatoia spolverata anch'essa con la semola. Portate ad ebollizione una pentola con acqua salata e fate lessare gli gnudi per pochi minuti e scolateli appena salgono in superficie. Scolateli bene e condite a piacere, classico con una sfumata di olio extravergine e salvia, oppure una bella salsa di pomodoro, basilico, aglio e olio extravergine. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one. Abbiamo parlato a più riprese nelle settimane scorse della crisi idrica e dei modi per porvi rimedio, con interventi strutturali e non episodici. Abbiamo detto della necessità di decidere a livello statale il progressivo abbandono degli allevamenti intensivi di animali, con opportune misure di conversione imprenditoriale. È un provvedimento necessario e urgente per ragioni prettamente ecologiche. Fermo restando che per la nostra redazione il vero motivo per mettere fine agli allevamenti, tutti gli allevamenti, è più profondo, ovvero la dignità della vita animale. Al momento il potere politico è del tutto sordo, peraltro nella sua generale e obiettiva incapacità di affrontare la crisi climatica ormai conclamata e sempre più drammatica, ma almeno nel mondo dei media, sempre assai poco incisivi quando si tratta di imporre un'agenda alla politica, si intravede qualche segno di apertura. Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale, nel suo editoriale di apertura del numero 1467 della rivista, intitolato Acqua, ha scritto così: «La produzione di carne assorbe molta dell'acqua destinata all'agricoltura. Uno studio del 2013 calcolava che almeno un terzo dei consumi idrici di tutti gli abitanti della Terra è destinato all'industria della carne. È un costo non contabilizzato, in qualche modo occultato o taciuto, di cui oggi scontiamo le conseguenze. Ci può piacere o no, ma è bene ricordarlo ogni giorno quando siamo davanti alla possibilità di scegliere. Vogliamo un chilo di carne di manzo oppure al suo posto, con la stessa quantità d'acqua necessaria per produrlo, vogliamo un chilo di pasta, più un chilo di riso, più un chilo di legumi, più un chilo di verdure, più un chilo di frutta, più 4.157 litri d'acqua, equivalenti grosso modo a 80 docce, per bere o per lavarci? Corri cavallo, corri ti prego, fino a San Marcanda io ti guiderò, non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Valentina Reggioli, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.